1, 2, 6, 9. Nel flebo non esiste nessuno, tu diventi qualcuno con un permanent flebo. Se tu apri quella porta puoi trovarci una torta. Trovi una corda, fatti un permanent flebo. Se ti senti nessuno, tu diventi qualcuno con un permanent flebo. Bene, dalla assoluta novità e variabilità della sigla avrete capito che questa è la solita trasmissione del giovedì a contenuto più o meno largamente politico. Il pezzo che avete ascoltato era Permanent Flebo degli Skiantos dal primo LP quasi fuori commercio, penso, che si chiama Inascoltabile. Mi auguro che inascoltabile non sia questa trasmissione che vede oggi in questa puntata settimanale della durata come di solo mezz'ora, alternata a musica e canzoni, che vede un argomento sempre per, o meglio stavolta per, visto che altre volte abbiamo avuto ospiti partiti diversi, stavolta per il Partito Repubblicano. L'argomento di oggi è sulla cooperazione e abbiamo anche un ospite in studio che poi si presenterà da solo. Volevo solo dire comunque, ricordare, visto che oggi è il 24 di aprile e siamo già in prossimità delle elezioni amministrative, che sono ancora aperte le candidature per chi voglia presentarsi come indipendente nelle liste del Partito Repubblicano per le elezioni comunali del 8 giugno. Voi sapete di questa iniziativa del Partito Repubblicano di aprire le proprie liste a quanti indipendenti si sentano rappresentati, perlomeno come area, un'area laica evidentemente, all'interno del partito stesso. Invito tutti coloro che ancora volessero farlo a scrivere al Partito Repubblicano in Piazza Garibaldi 55 o a mettersi in contatto con me tramite la radio o comunque telefonando ad esempio all'88041. Fatta questa breve premessa, direi di cedere senz'altro la parola all'ospite di oggi che parlerà appunto della cooperazione e che si presenterà lui stesso. Allora, come precedentemente annunciato, io sono Dino Giatti, membro della presidenza delle cooperative di produzione del lavoro, di Ferrara. Volevo fare una specifica, sul, movimento cooperativo, di introduzione, perché così detto, così, non dice niente. Il movimento cooperativo è per grandi linee suddiviso in tre grossi gruppi. Le cooperative cosiddette bianche che aderiscono alla Confederazione di Cooperative, le cooperative cosiddette rosse che aderiscono alla Lega e le cooperative che aderiscono all'Associazione Generale Cooperative che raggruppano in parte la componente socialdemocratica e una parte della componente repubblicana. Fatta questa breve premessa di introduzione, per dare un quadro abbastanza generico della situazione del movimento cooperativo, non bisogna anche dimenticare che la stragrande parte del movimento cooperativo è anche indipendente da queste grosse, tre grosse centrali cooperative. Quando si parla di cooperazione nei confronti del cittadino esterno, secondo me c'è ancora una notevole carenza di informazione su questo problema. La cooperazione ancora non è vista come quello strumento di aggregazione, o comunque si fa molto poco per questo tipo di conoscenza. Che, mi ringrazio appunto in questo caso Radio Alto Ferrarese che ci ha dato l'occasione come cooperazione, anche come componente repubblicana presente nella cooperazione, di cercare di chiarire o comunque di informare un po' le persone su quello che è la cooperazione, su quello che fa la cooperazione. Fatto questo breve intervento, direi che forse è il caso di mandare un ulteriore pezzo musicale, naturalmente non scelto dalla componente repubblicana, ma comunque in un secondo intervento approfondirò più il discorso sulla presenza della componente repubblicana all'interno della Lega. Sono sempre detta, cercherò. Troverai, mi hanno sempre detto, troverai. Per oggi sto con me, mi basto, nessuno mi vede. E allora carezzo la mia solitudine. Ed ognuno il suo corpo, chissà cosa chiedere, chiedere, chiedere, chiedere. Fammi sognare. Lei si morde la bocca e si sente l'America. Fammi volare. Lui allunga la mano e si tocca l'America. Fammi. Ci vuole per sentirsi in due. Quando ognuno è per sempre nella sua solitudine e regala il suo corpo, ma non sa cosa chiedere, chiedere, chiedere, chiedere. Fammi volare. Hai le mani sui fianchi come fosse l'America. Fammi sognare. Lui che scende e che sale, si sente l'America. Fammi l'amore. In effetti le musiche sono state scelte da me, mi piglio la responsabilità di tutto ciò. Era Gianna Nannini, il pezzo era America e l'LP era l'ultimo, che era California. Ma torniamo alla componente repubblicana del movimento cooperativo. Allora, due parole sul perché della presenza della componente repubblicana all'interno del movimento cooperativo e in specifico modo all'interno della Lega delle cooperative. La Lega, per i non addetti ai lavori, è nominata più che altro come la Cooperative Rosse. Ora, perché allora questa presenza repubblicana, questa presenza variegata aveva all'interno della Lega? I motivi storici sono dovuti al fatto che la Lega ha la sua maggior presenza all'interno della regione Emilia-Romagna, e voi sapete che all'interno della Romagna vi sono grosse presenze, soprattutto all'interno della Romagna, della componente repubblicana. Queste storicamente hanno dato vita all'inserimento di quadri repubblicani a livello prima Ravennate, poi dopo è entrato in tutte le province dell'Emilia Romagna, dove chiaramente la Lega è tuttora più forte e rappresenta più o meno l'80% del proprio giro di affari e anche di presenza di cooperative in tutto il territorio nazionale. Quindi la ragione di questa presenza all'interno della Lega è una presenza supportata da una presenza anche della base sociale all'interno proprio delle cooperative. Questo è un discorso chiaramente a livello emiliano e non locale. Sul ferrarese abbiamo sì una presenza per punti nelle cooperative, quindi non molto numerosa, ma che comunque porta avanti quelle che sono le indicative della componente. Che essendo presente anche nelle altre realtà cooperative è quella deputata, se si vuole, a fare anche un discorso di unificazione, che è uno dei nostri punti fermi come componente, cioè perlomeno tendere a un'unificazione, a un rapporto sempre più assiduo e continuo fra le tre centrali cooperative, diciamo schierate, e anche comunque al recupero di quelle cooperative che sono indipendenti, diciamo, che comunque vanno recuperati a un discorso di organizzazione, perché si bisogna passare alla fase di estremamente disorganica della cooperativa singola isolata per agire per gruppi di cooperative. A questo punto volevo fare un po' uno spaccato dell'evolversi del movimento cooperativo, senza risalire al discorso dei padri fondatori inglesi, al principio della cooperazione. Ma venendo molto più vicino a noi, al discorso della cooperazione, che è fondamentale, è quello del lavoro e capitale nelle stesse mani, che è il principio poi che ha ispirato anche la fede repubblicana nella persona di Mazzini, è un principio che si sta evolvendo. Voglio dire, adesso non siamo più alla presenza di certe cooperative delle piccole dimensioni che vedevano l'apporto manuale dei soci come apporto fondamentale per far andare avanti le cooperative. La cooperazione si va evolvendo e sta diventando, non come in molti altri dei nostri congressi, la terza forza dopo il settore agricoltura e il settore industria, ma comunque una forza considerevole, sia per dimensioni che per giro d'affari, e che va considerata che si va evolvendo. Stavo appunto dicendo che non siamo più quelle piccole cooperative di pochi soci, ma cooperative che si danno un volto oramai di grande spazio sul mercato. Questo ha portato a una evoluzione soprattutto dei nostri soci di base, che non sono più il socio che partecipava in maniera reale a tutte le scelte della cooperativa, ma viste le dimensioni raggiunte, abbiamo qualche problema sui discorsi dell'organizzazione, della ristrutturazione, della ricreazione delle nostre strutture. È in corso un forte dibattito all'interno delle strutture, sia della Lega ma anche delle altre cooperative, per andare incontro a queste esigenze. Però io non vorrei farla troppo lunga e rimanderei al mio prossimo intervento la soluzione di queste difficoltà, diciamo, che ci troviamo a incorrere, e a specificare anche come componente repubblicana le misure che diamo per una sua risoluzione immediata. Sono rosso, sono preso e volgare. pezzo che avete appena sentito era, ma ogni riferimento chiaramente è assolutamente casuale, non si vuole assolutamente con questo colpire nessuno, era Sono Rozzo e Sono Grezzo degli Schiantos, tanto per alternare un po' di musica demenziale, infatti così si chiama il rock degli Schiantos, con qualche cosa di più dolce che dovrebbe essere Gianna Nannini, anche se neanche lei si distingue per estrema dolcezza nelle sue canzoni. Detto questo, io inviterei appunto il relatore di questa sera a precisare un po' più concretamente quali siano gli elementi del movimento cooperativo, cioè che cosa in pratica si proponga di fare la componente repubblicana all'interno del movimento cooperativo, oppure al limite che cosa si proponga il movimento cooperativo stesso e in quali branche evidentemente qui in provincia di Ferrara eserciti la propria attività. È una puntualizzazione che giustamente andava fatta perché siccome il movimento cooperativo sta facendo una sua valutazione, mi sono lasciato prendere un po' la mano e sono partito già con dei temi che sono d'attualità per il movimento, ma che forse per una persona esterna è il caso di fare un momento la situazione su quelle che sono le varie branche del movimento. Il movimento cooperativo è suddiviso per vari settori. Abbiamo il settore della produzione e lavoro, che è il settore che riguarda l'edilizia, il settore del consumo, che sono le varie superette, supermercati, il settore dell'abitazione, che coinvolge le persone che sono alla ricerca della loro prima casa e tramite finanziamento a livello regionale si associano per avere il bene casa. Abbiamo poi le cooperative di servizi che associano in genere cooperative di trasporto e cooperative, diciamo, che sono più vicine al terziario. Abbiamo poi quella branca delle cooperative culturali che raggruppano cooperative di grafica, cooperative di editorie, cooperative di altre strutture. Questo per dare un rapido flash di quelli che sono i vari settori della cooperazione. In tutti questi settori e in questa fase, data l'evoluzione delle cooperative, siamo di fronte a qualche difficoltà di tipo organizzativo, perché non sono più quelle piccole dimensioni che avevamo storicamente un tempo e per cui dovendoci scontrare in maniera competitiva sul mercato, sia nell'edilizia, sia nell'abitazione, sia nell'agricoltura, abbiamo in questa fase qualche difficoltà di riorganizzazione e di ristrutturazione. Gli strumenti che vorremmo adottare sono strumenti che né l'azienda privata può darci, perché la caratteristica della cooperazione è quella di mantenere comunque la partecipazione del socio di base alle scelte, per cui non possiamo prendere a modello gli studi di marketing o di delle varie scuole manageriali, ma dobbiamo come cooperazione studiare un nuovo modello di gestione di queste nostre cooperative, che oramai hanno assunto delle dimensioni che per esempio possono anche occupare 1.000 persone, persone che però devono rimanere non in un ruolo passivo di quadro che non partecipa alle scelte, ma deve essere messo in grado di questa partecipazione. Questo è quello che si dice sul piano, diciamo, utopistico. Nella sua realizzazione, nella sua gestione, troviamo appunto quelle difficoltà che dovrebbero sanare però in maniera diversificata settore per settore. In questa fase non so se sia il caso di andare proprio nell'analisi, però si tratta comunque anche su queste dimensioni di andare al recupero del socio, cioè il socio in cooperativa deve essere partecipe delle scelte della cooperativa. Il partecipe delle scelte vuol dire investimenti, partecipe delle dimensioni anche dei salari. È in forte dibattito che si ha oggi in cooperativa è quello fra socio che è anche il socio sindacalizzato e quindi diciamo è un po' una questione di mettere d'accordo queste forze, partiti, sindacato e movimento cooperativo, che a volte sono anche la stessa persona, perché spesso ci troviamo a essere sia sindacalizzati, sia soci di cooperativa e sia aderenti a un partito. E il calo di partecipazione che hanno avuto sia il sindacato sia il partito sta investendo anche in parte il movimento cooperativo. È un problema preoccupante, secondo me però la cooperazione è la prima ad accorgersi di questa carenza e da mettere in atto le soluzioni per andare a un recupero di questo riflusso che chiaramente ha inciso anche nel nostro movimento. Il copione prevederebbe un pezzo musicale, però molto tempo non c'è e direi che sarebbe il caso di concludere con un'osservazione di tipo pratico. Io so ad esempio che qui a Bondeno c'è una cooperativa edilizia, mi pare che si chiami Fernando Ercolei, comunque poi chiederò lumi, ma dovrebbe essere senz'altro così, che ha affrontato il problema della casa per i propri soci, mi pare che siano circa una cinquantina, e questa cooperativa opera in modo da ottenere gli strumenti necessari per l'edificazione appunto di case per i componenti della cooperativa stessa. Così tanto per vedere in che misura ci può essere uno scambio tra questa politica cooperativa e il territorio bondenese, vorrei che mi dicesse appunto l'ospite in questione che tipo di rapporto può avere la Lega delle Cooperative con queste cooperative singole che nascono appunto per iniziativa di privati e come vede questa questione delle cooperative edilizie, specialmente appunto legate al problema della casa, che evidentemente è un grosso problema che penso le cooperative stiano affrontando, e tutto questo nel breve tempo che ci è concesso, vale a dire un paio di minuti. Un compito estremamente ingrato è quello che mi è stato posto adesso, perché in 2 minuti è impossibile dare una visione generale di quelli che possono essere i collegamenti. La cooperativa citata è una cooperativa di quelle non aderenti a nessun gruppo specifico, quindi né alla Lega né alla GCI né alla Confederazione delle Cooperative, è una cooperativa che agisce in maniera singola. Ora, i collegamenti che ci possono essere con la Lega sono collegamenti di tipo organizzativo, perché la Lega come struttura ha degli uffici di tipo fiscale, amministrativo, che per le sue aderenti fa questo tipo di contatti, quindi tiene contatti con l'ente erogante, l'ente pubblico, la regione, il comune, che segue in ogni sua fase e segue in ogni sua fase quelle che sono le pratiche burocratiche che sono tipiche del bene casa. È stato fatto a livello di Lega di Ferrara un seminar proprio alla Camera di Commercio proprio su questo tipo di problema. È chiaro che come Lega, come componente repubblicana, spingiamo perché queste cooperative aderiscano alla Lega per poter beneficiare di tutte quelle strutture che potrebbero facilitare a loro l'uso di questi mutui che dovrebbero essere di agevolazione per l'utilizzo del bene casa, che per la zona di Ferrara è un bene ancora ricercato, ma sappiamo che in tutta Italia è una questione che tiene molto banco in questa fase proprio perché il bene casa è uno dei beni più rari anche in relazione alle ultime leggi approvate sull'equo canone che non hanno contribuito purtroppo a chiarire questa situazione. Temo però che i 2 minuti siano finiti e invito magari la radio a fare un contatto con questa cooperativa per vedere anche quelli che sono le sue visioni e ci dichiariamo come componente repubblicana inserita all'interno della Lega disponibile per un incontro per vedere i nostri punti comuni, per vedere una gestione comune anche sul territorio di Bondeno. Va bene, io accolgo l'invito dell'ospite di questa sera. Vi ricordo che era ospite di Radio Alto Ferrarese per la trasmissione politica di questa sera, Dino Giatti, come rappresentante della componente repubblicana all'interno della Lega delle Cooperative. E faccio senz'altro mio l'invito alla cooperativa Fernando Ercolei e a chi appunto volesse venire ad occupare questo spazio di tipo politico, a presentarsi per esporre i propri problemi. augurandomi che questo confronto avvenga quanto prima, io vi ringrazio per l'ascolto, vi rinnovo l'appuntamento a questa trasmissione che per ora ha cadenza settimanale, il giovedì dalle 21 alle 21.30, e a mo' di sigla, anche se evidentemente sarò costretto a sfumarla per ragioni di tempo, visto che il tempo praticamente è scaduto, gli Skiantos in Blues a Baluz. Questo è un blu a Balù.